hanno ucciso delle iene, una lama nelle vene, come tanti laureato, precario ingegnere, su una strada a lungomare, nero scrigno, nero sole, l'hanno ucciso ma sento ancora la sua voce dentro al mio cuore. Ogni volta che la terra massacra i propri figli, nascono mille fiori, nascono nuovi gigli, rossi tanto da affogare l'ingiustizia in fondo al mare. Chi di libertà si nutre non muore mai e vive nel sole. Virulenti parassiti, grigie vite senza pace, sputano sul mondo la loro indole atroce. Di vendetta in vendetta sono morti, nati morti, col coltello in mezzo ai denti, come sciacalli in mezzo ai venti. Ogni volta che la terra massacra i propri figli, nascono mille fiori, nascono nuovi gigli, rossi tanto da affogare l'ingiustizia in fondo al mare. Chi di libertà si nutre non muore mai e vive nel sole. Renato l'hanno ucciso, mai cresciuto il suo fieno, maturato in mezzo ai campi, maturato anche il suo grano, su una strada a lungomare, spighe d'oro, spighe di sole. L'hanno ucciso ma io sento ancora il suo cuore, la sua voce. Ogni volta che la terra massacra i propri figli, nascono mille fiori, nascono nuovi gigli, rossi tanto da affogare l'ingiustizia in fondo al mare. Chi di libertà si nutre non muore mai e vive nel sole.